Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, sono le 8 e 19 minuti. Dov'è Oscar? Eccolo, caro Oscar, buongiorno. Buongiorno, come andiamo? Tutto a posto. E lo sai perché tu sei preso ieri una giornata, ti sei rigenerato, mentre io invece... No, mi ero attardato a leggere alcune cose di là. Stavo leggendo, siamo in onda, 2 novembre, i defunti. Lo sai perché da quando si celebrano i defunti oggi? Perché tutto ha una storia nella bimillenaria chiesa cristiana. Non l'ha deciso un papa, l'ha deciso un abate. E perché l'ha deciso un abate? Era intorno all'anno 1000 qualche cosa, era il terzo abato di Cluny, il terzo abate, il terzo santo, per capirci, perché Cluny, che cambia la storia del monacesimo benedettino in Europa e diventa la prima vera rete di affiliazioni di abbazie, primo indipendente dei vescovi locali e secondo tutte soggette a Cluny, era diventata così importante la parte di quelli che stabiliva lui il calendario liturgico. Quindi da allora il 2 novembre si celebrano i santi, ma dietro c'è una storia di potere nella Chiesa, appunto. Comunque, i morti. No, però se lo stabilisce un abate qual è il calendario liturgico e non il papa, capisci che voleva dire che era diventato importante. Infatti Cluny fu importante poi, fino a che la rivoluzione francese fece rimanere niente dell'abbazia di Cluny. La sai la storia? Pensa che quelli dall'Ottocento al 1693 hanno dominato l'intera Europa e la rivoluzione francese fece rimanere in piedi solo l'8% delle pietre dell'abbazia. Vabbè. Comunque, tra le cose da ricordare oggi, nel 1936 la BBC cominciava le normali trasmissioni televisive. Pensa, noi siamo arrivati 20 anni dopo, 55 nel nostro paese. Nel 75 si trovava il corpo di Pierpaolo Pasolini, morto allo scalo di Ostia. Però per me la data più importante è che nel 1852 Cavour, oggi, giurava di diventare primo ministro del regno di Sardegna, di cui io sono un po' nostalgico, perché poi l'Italia dopo... Il monarchico, ma Giannino. Il problema è che Cavour non era mai sceso sotto la Liguria e infatti nacque l'Italia grazie poi a 500 bergamaschi un po' matti. Questa è un po' l'idea in sintesi mia dell'Unità d'Italia. E comunque nel 2004 invece è assassinato il regista olandese, qui diventa, il tono cambia, diventa serio, Theo van Gogh, per il suo documentario sulle violenze a cui sono sottoposte le donne nei paesi dell'Islam, ucciso un marocchino. Dal 2004 capimmo, toccando con mano, che l'Europa aveva un problema, il mondo aveva un problema, e come si vede è ancora irrisolto. Però lasciami dire ancora una volta, non sono totalmente d'accordo con la tua scelta del chi se ne frega del giorno, sempre con un povero micio, un povero gatto. Ma sai che io quando trovo i mici, i gatti, ma lo faccio per amore della mia gatta. Ma si capisce però... proprio che quello che i bambini ti hanno imposto di avere a casa non è proprio il vertice. No, Non è vero, invece io lo amo. L'amo, la follia zen, però insomma, quando vedo questi mici gatti con mezze pagine sui giornali, così mi diverto. Come la catfulness, è un divertissimo. Non l'avevo letto la oggi, catfulness. Ci sono andato appena hai segnalato il metodo catfulness, meditazione, tecniche di rilassamento, l'arte di dire no, tutto imparato dai mici. L'arte di dire no, capisci? I miei 5 sanno dire solo quello. Esatto. Oh mamma mia, Lulu, Lolo, siamo di essere noi. In questo devo dire che la tribù dei due nuovi arrivi a casa senza coda, cioè i miei due figli, ha esteso. Quindi è un blocco tra moglie, cioè 5 gatti e 2 figli. A ogni mia richiesta vedo che si girano, perché fai la somma, sono 8, quindi 16 occhi, 8 paio d'occhi, e tutti quanti dicono no. 8 a 1, questo è il ratio del voto nella mia famiglia, è 8 contro e io il povero, naturalmente si fa quello che dico. Esonerali. Lo so, esonerali, che non funziona come a casa tua dove comandi tu, da me comandano. Esonerali. Allora diamo il numero di telefono, infatti era per quello, non spariamo sulla Croce Rossa. Diamo il numero di telefono 800 24 00 24. Allora, caro Oscar, la questione del terremoto adesso è la burocrazia il grande nemico, secondo alcuni. È la burocrazia. Vabbè, abbiamo scoperto perché c'è il terremoto che siamo in un paese in cui c'è molta burocrazia. E mi fa sorridere tutto questo. Però se vedi sui giornali, è proprio come dici tu. Cioè, abbiamo il ministro Franceschini che su Corriere della Sera dice: sì, però Cantone non è che ci può bloccare adesso. La stessa cosa dice Antonio Paolucci, uno dei più grandi nomi del restauro, ex capo del polo dei musei di Firenze e poi alla testa dei musei vaticani. E anche Paolucci dice: beh, ma adesso mica ci dovremmo mettere a rispettare, no, le regole del nuovo codice degli appalti. Qua si tratta di fare un bando addirittura per 20.000 euro. Non è possibile, ci vuole l'emergenza. Devo, anche per Lanci, il sindaco di Ascoli, no, l'ha ricordato prima, dice la stessa cosa. Allora io mi limito a dire, cari ascoltatori, che oggi su Repubblica di Milano, però non in pagina nazionale perché l'Expo bisogna ancora preservarlo, ecco, ci sono alcune belle pagine della Repubblica di Milano in cui dice: Expo, due punti, lascia in eredità 6 processi e 3 inchieste. Ecco, vi ricordate che anche l'Expo ha la stessa storia? E lì c'era Cantone, figurati un po' se non ce lo mettiamo. Però ci sarà un modo per farli veloci e legali, gli appalti, ma scontenti troppa gente, sia quelli che li vuole fare lunghi, sia quelli che non li vuole fare legali, e questo è il problema italiano da sempre. Il problema italiano. Però ci ritroviamo con il sindaco di Ussita, che racconta oggi sul Giorno che c'è una chiesa che ormai non è più purtroppo una chiesa, un moncone di chiesa, e va abbattuto perché ormai non è rimasto niente, e dice: io lo abbatto a costo di farmi denunciare, perché dovrei seguire una procedura trafila di Ministero dei Beni Culturali, Sovrintendenza, la Curia, e ci vuole troppo tempo, e quindi io l'abbatto perché la sicurezza dei cittadini viene prima. Benissimo. Allora, e poi però, mi denunciano pure. Ieri ci siamo occupati per metà della trasmissione di come ricostruire, cominciando proprio dalle chiese, no? Ricordando che ogni volta ci poniamo sempre gli stessi problemi. Qua, nel 76 in Friuli il problema era: se ricostruiscono le chiese come erano, dove erano, del 300 oppure no? Ecco, e siccome abbiamo consolidato una certa esperienza, ricordiamocelo, cari sindaci, abbattere tutto prima che qualcuno si occupi di fare una verifica di che cosa davvero si deve e si può recuperare per ricostruire il più possibile le chiese antiche come erano, significa che poi non potete dire che la volete più come era e dov'era. Quindi basta che lo sappiate, perché poi se qualcuno della comunità locale, rivolgendosi alla sovrintendenza, vi fa causa, ebbene non ha tutti i torti, ma non è perché si inventi la voglia di perdere tempo, perché dovremmo sapere da 40 anni come si fanno queste cose, ogni volta ricominciamo da capo, e questa è un'Italia senza memoria, un'Italia pesce rosso che fa sempre gli stessi errori. Ci sono per dibattiti esempio, consolidati che rimangono. Che ne pensi del ministro Delrio, forse ti è sfuggita questa, sul Giorno fa un'intervista e dice: l'Europa ricostruisca la cattedrale di Norcia, Juncker dovrebbe pensarci perché San Benedetto ha protetto i nostri valori. Ma io dico: ma è una cosa importante la cultura, il patrimonio artistico, però magari avrei preferito dire: l'Europa ci mandi i container e ce li paghi loro, ce li pagano loro per 22.000 persone, per 22.000 sfollati. Che il primo pensiero sia per la cattedrale di Norcia, col massimo l'avrai capito che avvicinandosi questo referendum, che forse si sposta, l'asticella alta tenuta dal governo per far polemica contro l'Europa, per prendere i voti dell'antieuropeismo eccetera eccetera, oramai approfitta di qualunque cosa. Ma io sono brutale oramai nell'interpretare questi, non mi fa paura, voglio dire, l'accusa. Il problema è che secondo me chi fa informazione deve anche far capire quello che molti non dicono in queste prese di posizione. Del Rio è una persona autorevole, misurata, però il governo ha preso questo tettone, per così dire, e forse non basta, perché come sai il vero dibattito è che lo vogliono rinviare il referendum. Eh sì, ma di questo tra l'altro parleremo, perché oggi torneremo sulla questione del referendum. Noi procediamo come se tutto fosse stabilito. Poi magari, al 4 dicembre, però vedremo che forse due giorni prima ci dicono che per altri 6 mesi spiegare al mondo che l'Italia affonda se vince il no. Mamma mia, due giorni prima no. Tanto magari assumono prima i provvedimenti di rigore al Sole 24 ore. Cari ascoltatori, non perdetevi le due pagine oggi sul Fatto Quotidiano, dedicato ai retroscena del Consiglio Generale a porte chiuse, dedicato al Sole 24 ore, dove si apprende che i responsabili sono i dipendenti del Sole 24 ore. Uno su due dei i quali, a detta di un presidente che ha le impronte digitali su, insieme ad altri della collezione del sole, viene indicato come destinato ad andare fuori la porta. Dei due io mi candido ad essere qua, perché è ovvio che finirà così, no, caro il nostro, scusa il tono, però io sono dell'idea che dobbiamo anche dirlo ai nostri ascoltatori, che si parla di noi non proprio in maniera commendevole sui giornali italiani. Sì. Allora, tra l'altro, a proposito di terremoto, torniamo su questo tema, perché è possibile che a Napoli non ci sia un piano di fuga antisismico? L'evacuazione. Eh sì, di evacuazione. Pare che non ci sia. Pare che non ci sia. Non lo so, lo vogliamo chiedere al vice sindaco Raffaele Del Giudice, assessore anche all'ambiente del Comune di Napoli. Buongiorno vice sindaco e grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, grazie intanto per l'invito. Ci faccia capire in maniera chiara, c'è il piano di fuga, il piano di evacuazione antisismico a Napoli, c'è o non c'è? Sì, sì, il piano c'è. E come tutte le città, ovviamente Napoli ha una particolarità, perché il nostro piano prevede 3 aree di intervento. Noi siamo sottoposti a un rischio vulcanico, il Vesuvio, poi siamo sottoposti a rischio sismico e poi abbiamo il rischio Campi Flegrei. Quindi il nostro piano è dinamico, nel senso che per gioco di forza deve assolutamente contemplare queste 3 aree l'una all'interno dell'altra. Ma perché dicono i giornali in realtà che non c'è questo? Perché spesso poi mi è stato spiegato che chi fa il titolo non è la stessa persona di chi scrive l'articolo. Questo me l'hanno detto ieri e per me è una sorpresa. Sì, questo sì, sì, questo glielo posso confermare. Questo per me è stata una sorpresa, perché adesso ho capito un po' di titolite e poi la sintesi, ovviamente lo spazio giornalistico, insomma un po' di cose che hanno portato a dire che non c'era. Ovviamente noi, il nostro piano poi deve essere assolutamente declinato sulla città. La nostra difficoltà, e non la nascondo, è stata quella di dover sovrapporre delle aree che andavano bene per il rischio vulcanico, ma andavano ad incappare nel rischio Vesuvio. Poi abbiamo dovuto fare un lavoro di sovrapposizioni di mappature enorme. Approfitto per ringraziare gli uffici e quanto ci hanno dato la mano, perché davvero alcune aree andavano bene per una tipologia di rischio, ma incappavano in un'altra tipologia. Quindi davvero è stata una sfida molto molto pesante da parte nostra, però insomma siamo contenti di aver già consegnato alla Regione i documenti tecnici necessari. Poi ci sono tutta una serie di attività da fare, perché il sistema di protezione civile non è comunale. Il sistema di protezione civile è nazionale, che ha delle declinazioni territoriali, regioni, province o città metropolitane dove ci sono, città di Napoli. Tutta la filiera poi va messa insieme e a questo serve proprio la protezione civile nazionale e regionale. Che però, vice sindaco, qua, lavorando bene. Qua, non so, anche Oscar il Mattino diceva che anche l'altro ieri ci vorrebbero ancora 2-3 settimane per il varo, quindi che questo piano in realtà non c'è. Il vice sindaco ci sta dicendo ma che il titolo è, che io ho in mano, lunedì 31 ottobre il Mattino, quindi lunedì 31 ottobre, stiamo parlando 2 giorni fa. Napoli, la denuncia del vice sindaco, virgolettata. Forse quello è il titolo. Mai che esistito piano di fuga per terremoto. È questo il titolo che non le è piaciuto. Non le è piaciuto? No, va bene, io rispetto sempre la stampa. Chiederei un aiuto a comunicare bene. Ma siamo qua per questo. Una difficoltà. No, questo dicevo. Seconda domanda, per capire sempre se è colpa nostra, come sempre. Ma, No, assolutamente, non ho detto questo. No, ma dai, un po' di. Anzi, ho detto altro. Faccio io l'autoironia. Vabbè, per è comunque un giornalista chi fa il titolo, non tutto è un qua, orto, faccio, non è un fruttivendolo. Ma chi ha scritto anche qua sui giornali campani, poi lanciati da quelli nazionali, ma soprattutto sui giornali campani, il presidente della regione De Luca si fa bello, perché a un certo punto recentissimamente dice la regione ha pronto il piano, ci sono 25 comuni che hanno 15 giorni in cui devono farlo e prima di tutto è Napoli che è l'adempiente. Questo è quello che è passato dell'annuncio della regione su i piani antirischio, per così dire. E anche questa è l'interpretazione giornalistica, o ha del vero che dei 25 comuni interessati poi 8 erano particolarmente dietro, a cominciare da Napoli, che dal 1980 solo una volta nel 2012 ho visto il consiglio comunale, se è vero anche questo glielo chiedo, si è occupata dei piani di evacuazione antisismici, cioè c'è proprio a questo. La giunta De Magistris è stata la prima, io a questo mi riferivo, ad aver messo mano al piano, che ripeto è molto complesso, quindi il titolo più che altro non ha restituito la complessità, ma per l'amor di Dio, per cui siamo stati i primi a mettere mano a un piano complesso. Dopodiché, ricordo a me stesso e a chi ci ascolta, perché è importante, questi piani vanno adeguati di volta in volta, perché appunto le caratteristiche del nostro territorio, ma questo in tutta Italia, si modificano e vengono aggiornati i criteri sismici e vengono aggiornate anche delle situazioni territoriali. Ecco perché i piani hanno bisogno poi di adeguamento. Quando poi vengono ridefinite le cosiddette zone rosse, e qui c'è stato un momento di interlocuzione con la Regione Campania, noi non eravamo inadempienti, noi semplicemente stavamo e stiamo come tuttora in contatto con la Regione Campania, con il sistema regionale, per avere quegli aggiornamenti che ci consentono di adeguare il nostro piano. E dato che, come ho detto prima, che il nostro era particolarmente complicato, ecco perché abbiamo impiegato un po' di tempo per farlo necessario, rigoroso, per evitare di fare delle cose raffazzonate, onde mettere tutti poi nella seconda fase, che io aspetto con ansia, che è quella poi del trasferimento dei cittadini napoletani in caso di calamità, dell'accoglienza da parte delle altre regioni. Immagino che tutto questo già ci sia. Cogliamo l'ironia. E per capire i nostri ascoltatori, stiamo parlando di complesso piano di evacuazione di 25 comuni che insistono. Sono un uomo di filiera istituzionale. No, ma questo gliele stiamo dando atto, però per far capire, stiamo parlando di un piano che riguarda fino a 700.000 persone, cioè stiamo parlando di uno dei problemi più rilevanti potenzialmente che si può creare nel nostro paese. Il vice sindaco di Napoli ci dice, noi magari saremo anche in ritardo, ma stiamo mettendo a punto questa cosa. Vogliamo pensare che tutte le altre regioni, o tutti gli altri comuni della Campania abbiano già oliato il meccanismo di dove accogliere 700.000 persone, dovesse qualora accadere questa una tragedia. Assolutamente non c'era ironia nel mio pensiero in questo momento. No, vabbè, ma una sana ironia. È semplicemente, come dire, perché condivido anche lo spirito della trasmissione di affrontare il problema in una logica di grande abbraccio nazionale. Guardate, è veramente il momento. Io ho sentito anche prima, e non vorrei fare retorica, non mi appartiene, sono uno abituato a risolvere i problemi. Sì. Poi del resto, col nostro sindaco De Magistris, o si risolvono i problemi o si risolvono. I ritmi sono tali che ci impone performance eccellenti, e questo ci fa piacere. Però è arrivato il momento di fare un patto nazionale della chiarezza, no? Della chiarezza istituzionale. Alle volte, qualche comune, con umiltà, in maniera rigorosa, evita di fare annunci roboanti, perché sa che il sistema è fatto come un treno. Vuoi vedere che forse manca qualche vagone di un altro treno? Va bene, non fa niente. Siamo tutti a lavorare insieme. Va bene, intanto noi la ringraziamo, vice sindaco Raffaele Del Giudice, vice che sindaco per il momento Napoli. Il treno che mancava era la qualità del collegamento telefonico, siamo incolpevoli noi come il vice sindaco. Sì. Dai, andiamo un attimo in pubblicità. No, sentiamo prima Alberto da Como, poi andiamo in pubblicità. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Danilo Milan. Senta, io premetto che io sono un cattolico praticante, però mi chiedevo una cosa. Noi dobbiamo ricostruire tutto, chiese comprese. Sì. Ma il Vaticano parteciperà a questo tipo di costruzione o sto facendo una domanda blasfema? E mi piacerebbe sapere. Non lo so, se l'avessi fatta io sarei stato... Cosa ne pensate? Passato per Danilo. La domanda non è blasfema, su questo la tranquillizziamo. Non so, voglio sperare, effettivamente. Alberto pone una domanda, tra l'altro da cattolico praticante. Grazie Alberto. Grazie mille a voi. Grazie. Uno si aspetterebbe che una parte non irrilevante dell'utilizzo dei fondi dell'8 per mille, questa volta la parte predominante del totale dell'8 per mille, oltre 1.200.000.000 che vogliamo alla Chiesa, vedesse destinazioni di questo tipo. Però oppure ci penserà Juncker, non lo so. Questa è mia ironia. Può aspettarselo, poi Dio vede e provvede, perché sostituirsi? Tu dubiti, ma secondo me invece questo Papa dirà in qualche modo utilizzate i soldi anche per un conto, la macchina vaticana anche in questo caso, come ci ricordava il vice sindaco, i sistemi complessi hanno origini decisorie, per così dire, a più matrici, no? Diciamo così, caro amico, caro Alberto da Como, speriamo e sarebbe auspicabile che anche dal Vaticano lei però ci come fosse... credente può pregare questo, preghiamo insieme per questo, perché del resto ogni tanto il Papa fa delle cose che mi stupiscono. Ieri la cosa di Lund, il 500° anniversario della fissione delle tesi di Lutero, secondo me è una cosa di grande valore. Poi, per carità, lo dico con pieno rispetto per i cattolici, che penso invece che sia un Papa eretico per il solo fatto di dire Lutero forse poneva dei problemi che avevano qualche fondamento. Ecco. Comunque, insomma, noi cosa facciamo? Adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi torneremo a parlare del referendum, le ragioni oggi del sì sul rapporto Stato-Regioni, e poi cercheremo anche di capire, ma questo referendum si farà, non si farà? Vi dobbiamo raccontare che c'è un giudice, o una giudice, a Milano, che potrebbe far slittare tutto. Nome anche Loreta. Loreta si chiama. Vabbè, tra io poco. Non posso fare battute. No, tra poco. Non so. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, c'è questo titolo che c'è sui giornali sul referendum, a rischio rinvio, perché c'è un presidente della Corte Costituzionale ex, Valerio Onida, che ha fatto un ricorso dicendo che questo quesito è troppo complesso, corposo, andavano fatti più quesiti, insomma è incostituzionale per e sarebbe un problema di incostituzionalità sulla legge che disciplina il referendum, esatto. Che non consente appunto lo spacchettamento, pur dicendo che insomma i quesiti devono avere, cioè, la scelta sottoposta all'elettorato deve avere una sua, sia pur complessa, ma insomma chiara comprensibilità. Allora dice, siccome questa legge non consente lo spacchettamento, ma il principio è quello della chiarezza, ha fatto ricorso. Cara Corte. Certo. E c'è un giudice, anzi una donna, si chiama Loreta di nome, e dovrà decidere presumibilmente in settimana, cioè potrebbe in qualche modo anche rinviare se giudicherà incostituzionale, quindi accoglierà il ricorso del professor Onida, giudicherà incostituzionale questo quesito per l'impensabilità che la Corte possa risolvere a quel punto in 48 ore o in 4 o in 3 settimane per il referendum l'eventuale domanda, e allora a quel punto si potrebbe tornerebbe ai tempi di Enrico Slitta, ti ricordi? Enrico Slitta. Soprannominato così. Loreta Dorigo, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano. Molti dei destini del referendum sono, almeno del destino, si vota o no, sono legati a lei. Poi c'è chi scrive anche di speranza da parte di autorevolissimi politici italiani, a cominciare dal Presidente del Consiglio, di ex Presidente della Repubblica Napoletano. Come dire, c'è chi spera, secondo alcuni. Naturalmente, tutte invenzioni dei giornalisti, come sempre, perché è ovvio che sono sempre giornalisti che vedono ciò che non c'è e se lo inventano, come no. Comunque, noi andiamo avanti come se non ci fosse nessun cambiamento. Come se non ci fosse un domani, no, c'è anche in caso di qualunque risposta al referendum, cari ascoltatori, dire. Cioè, facciamo finta, al momento si vota il 4 dicembre e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Si vota il 4 dicembre, non ci mettiamo da parte di chi ci dice che poi a Giannino e Milan sono anti-istituzionali. Si vota il 4 dicembre. E con noi c'è e torna il professor Carlo Fusaro, che insegna diritto elettorale parlamentare a Firenze. Buongiorno Fusaro e ben ritrovato. Buongiorno, ritrovati bene a voi e agli ascoltatori. Allora, oggi vorremmo concentrarsi un po' sul rapporto Stato-Regioni da questa riforma. Il professor Fusaro è per il sì. E ci spiegherà le motivazioni per il sì. Ovviamente gran parte di questa riforma è anche dedicata alla riforma del titolo quinto della Costituzione, quindi il rapporto Stato-Regioni, il principio è stabilire bene chi fa cosa, questo è il principio, la ratio di questa riforma, professor Fusaro, se ho capito bene, cioè che cosa fa lo Stato, cosa fa le Regioni, senza evitando così sovrapposizioni di competenze. Riducendo le sovrapposizioni di competenze, riducendo il contenzioso e soprattutto dando ai cittadini e alle imprese più chiarezza e meno complicazioni, perché oggi, che so io, un autotrasportatore che deve fare un trasporto da nord a sud deve conoscere la disciplina di varie regioni e a volte anche province. Però c'è chi dice, al professor Fusaro, che in nome della clausola di supremazia anche quel poco che resta, dicono chi critica, il poco, non lo sto dicendo io, anche quel poco che resta delle regioni, in nome della clausola di supremazia arriva un governo e dice tanto decido io comunque. Prima di tutto non è il governo ma il Parlamento, esatto. Oscar, su proposta del governo, e questo è ovvio. Ed è ovvio, perché è chiaro che non si può lasciare a ogni singolo deputato l'idea di attivare la clausola di supremazia. Immagini il siciliano sul Friuli. No, preferisco non immaginare il film dell'orrore. Quindi è questa la ragione per cui il governo nella sua responsabilità. Ma la clausola di supremazia è pensata per situazioni del tutto eccezionali e su casi del tutto specifici. Secondo me funzionerà più a livello preventivo. E in ogni caso è proprio lo strumento di chiusura, che c'è anche in ordinamenti pienamente federali, non dico regionali come il nostro, ed è l'elemento di chiusura perché è quello che taglia la testa al toro di eventuali contenziosi. Sì. Ecco, vogliamo spiegarlo, cioè che viene introdotta con la riforma questa clausola per cui se lo Stato centrale ravvisa in qualche modo un interesse pubblico generale sopra, dice, sulla materia di competenza delle regioni, la... la sottrae alle regioni, ecco. Ma non sottrae la materia, non sottrae la decisione, singola forse. Decisione. La singola decisione. Esatto, dice ragioni di esigenze di unitarietà dell'ordinamento e di interesse nazionale. In pratica quello che succederà sarà che il Parlamento valuterà se c'è l'elemento di interesse nazionale e non, come di fatto è successo, la Corte Costituzionale. Infatti, professor Fusaro, la critica di chi sostiene il no è questo, cioè di fronte a un'idea di voler fare chiarezza si rischia una troppa centralizzazione su molte materie a livello statale, con le regioni che vengono un po' scavalcate. Che le regioni perdano competenza legislativa con questa riforma è pacifico. È proprio uno degli obiettivi della riforma, di riportare al Parlamento nazionale, nel quale peraltro le regioni dovrebbero essere notoriamente coinvolte, dato il nuovo ruolo e la nuova composizione del Senato, allora vengono riportate competenze come il commercio estero, la tutela della sicurezza del lavoro, le grandi reti di trasporto, le grandi reti di energia, che probabilmente è stato un grosso errore affidare a una competenza concorrente. Lei forse sa, gli ascoltatori devono sapere, per esempio, che il solo passante elettrico dalla Sicilia alla Calabria ha dovuto attendere 10 anni, 80 autorizzazioni, a un costo aggiuntivo per i cittadini di 600 milioni di euro l'anno, ora finalmente completato. Ecco, sono cose che hanno ricadute immediate anche sulla tasca dei cittadini. Qua c'è da capire la questione della sanità, perché lo Stato si occuperà di salute e le regioni di organizzazione sanitaria. Le regioni, ovviamente, molte dicono attenzione, rischiamo anche sul tema della sanità che rischia di essere ricentralizzato, anche se si favoriscono ovviamente le eccellenze e si puniscono invece coloro che... Dunque, nella riforma si parla di tutela della salute, tutela della salute. Quindi qui siamo al caso che viene fatto spesso, per esempio, del farmaco che viene anticipatamente rispetto alla regione piuttosto che all'altra dichiarato utilizzabile, che so io, in Piemonte rispetto alla Calabria, per cui in Calabria il malato che ha bisogno di quel farmaco non se lo vede passare, mentre in Piemonte sì. Però tutto quello che riguarda l'organizzazione degli ospedali, eccetera, eccetera, nel bene e nel male rimane saldamente regionale. Il grosso, qui di nuovo, sono disposizioni generali e comuni quando si dice in nome della garanzia della tutela dei livelli essenziali di assistenza, questo deve essere uguale, diciamo, da Tolmezzo a Capopassero, ecco. Mi chiede un amico per capire, cioè davvero per capire, ma nel caso in cui, ipotizziamo, riprendendo in mano quello che dicevamo prima, ci fosse un governo che propone al Parlamento su una certa materia la clausola di superiorità e di chiusura rispetto pur a un tema che è di competenza di una regione, a quel punto il ruolo del, tra virgolette, nuovo, no? Senato come esce dalla riforma in Parlamento, nella decisione del Parlamento su questo tema specificamente attinente, quindi a una materia di primaria importanza rispetto al nuovo criterio che la stesura della Costituzione modificata propone, cioè l'emanazione dai consigli regionali, a quel punto il nuovo Senato ha potere rispetto alla Camera di dire no e basta, oppure è la Camera che anche in quel caso può dire sì e basta? La riforma su questo è chiara, è la Camera che ha l'ultima parola. Però sempre, anche su questo, sul potere delle regioni. Anche su questo, la differenza però è in questo, che se il Senato si pronuncia con la maggioranza qualificata, anche la Camera deve necessariamente pronunciarsi per superare la controproposta del Senato a maggioranza qualificata. Quindi anche su poteri attribuiti ordinariamente alle regioni, se un governo con una forza maggioranza dice me lo prendo io, il Senato, anche su una materia per la quale uno dovrebbe dire questo Senato dovrebbe innanzitutto esistere per questo, però se la Camera ha a sua volta una maggioranza qualificata, il governo passa e la Camera decide avendo l'ultima parola. Esattamente, beh, del resto, dunque, premesso che, come dicevo, la clausola di salvaguardia, di supremazia, di unità nazionale, ma sono definizioni, non è che nella Costituzione c'è scritto questo, nella Costituzione c'è scritto come funziona. Questa clausola c'è in fior di stati federali, federalissimi, come credo Oscar in particolare sappia, ma ad ogni buon conto è proprio quello che garantisce dalla conflittualità. Ma non è che si piglia una materia, vorrei che fosse chiaro. No, una legge, un esempio. Intervenire in materia, sì, capito? Sì, sì, certo. Su temi concreti che stanno in materia, certo, esatto. E questo è quello che dovrebbe poi alla fine, insieme alla miglior definizione e l'abolizione della celeberrima competenza concorrente, garantire una drastica riduzione della conflittualità. Chiaro, la materia rimane alle regioni, ma io su quella cosa non posso ammettere che in Sicilia o in Sardegna o in Toscana si faccia in modo che non è compatibile con la tutela. Sì, chiaro. Senta, professor Fusaro, lei in materia di, diciamo, accoglibilità del ricorso presentato al professor Onida, qui sta appeso alla possibilità che si voti o meno il 4 dicembre o altrimenti non so a quando si slitti perché si blocca tutta l'agenda italiana, che ne pensa? Io ho sempre fiducia nella magistratura, nonostante che questa fiducia ogni tanto venga scossa da iniziative un po' curiose. Ergo. Però credo che non vi sia alcuno spazio. Nel merito sono del tutto contrario, perché io non credo che le riforme di questo tipo si facciano come andando agli scaffali di un supermercato, prendo questo, lascio quello. Sì. Okay. E poi abbiamo parlato per esempio di una cosa oggi che è chiarissima secondo me per i cittadini. È vero che la composizione del nuovo Senato e le sue funzioni sono una cosa e i nuovi rapporti Stato-Regione sono un'altra, ma è sotto gli occhi di tutti che un pacchetto unico e coordinato. Tolgo competenza legislativa alle regioni, la do a un Parlamento di cui il Senato è fatto in un certo modo. Quindi secondo lei, insomma, speriamo di votare il 4 dicembre. Non solo, ma c'è un altro elemento ovvio a mio avviso. I parlamentari, belli, brutti, alti, bassi, hanno votato quella cosa. Ecco. Avrebbero votato forse diversamente anche loro se fosse stata, virgolette, spacchettata. No, ma questo cosa ci dà per dire nel merito. Non ha proprio senso. Per dire nel merito, secondo lei questo ricorso non ha senso dal punto di vista, però ci sarà un giudice che si pronuncerà. Va bene, dai, ci fermiamo qui, caro Oscar, ci troviamo domani puntuali, precisi. Ok, anche oggi pomeriggio alle 4:30 per chi vuole la versione di Oscar. Ciao.